In primo piano. E in primo piano, chiaramente, come anticipavamo, c'è ovviamente la politica, una nuova puntata, ed era il momento più atteso, quello di ieri, no? Del voto di sfiducia contro il sottosegretario Caliendo, e il risultato è un po' scontato. In realtà è stata respinta questa mozione di sfiducia che era stata presentata dall'opposizione. Però la questione è che, come titolano la gran parte dei giornali, è che la maggioranza non c'è, nel senso che i voti sono stati 299, la maggioranza sarebbe di 316, quindi mancavano un po' di voti all'appello, e come si diceva, la tentazione potrebbe essere effettivamente quella di tornare presto alle urne. Però cominciamo a vedere un po' quindi i titoli, le aperture dei giornali, dal Corriere che scrive Caliendo: salvo, ma la maggioranza non c'è. Quindi molto lapidario, la maggioranza non c'è. Questo è il titolo del Corriere. Berlusconi: prepariamoci al voto, può esserci fra 3 anni, però anche prima. Respinta quindi la sfiducia al sottosegretario, la coalizione si ferma a quota 299. E fa il conto anche il Corriere nell'occhiello, dicendo: Asse, Fini, Casini, Rutelli, il famoso terzo polo di cui si continua a parlare in questi giorni, si astengono in 75. Quindi è stato un importante ago della bilancia, questa, diciamo così, estemporanea per ora coalizione tra Fini, Casini e Rutelli. Poi la Repubblica: Caliendo salvo, la maggioranza no. Anche qui piuttosto categorico. La Repubblica, il PDL, voto anticipato più vicino, scontro in aula con i Finiani, e sembra proprio che ci siano stati anche degli schiaffi, questo per dire quanto sono profonde le ferite che si sono create, insomma, tra PDL e Finiani fuoriusciti. Bocciata la mozione di sfiducia, Berlusconi arriva a Montecitorio fra applausi e cori di Duce Duce, Cicchitto, attacco a Repubblica e De Benedetti. Ovviamente Repubblica lo cita, visto che riguarda se stessa. Poi invece La Stampa, è chiaro che poi nell'occhiello, nel sottotitolo, nel sommario, si continua appunto a ribadire il concetto che la maggioranza non tiene, e che il voto di sfiducia è stato respinto. Però il titolo è: Berlusconi tentato dal voto, quindi mette in evidenza in particolare questa tentazione, insomma, di Berlusconi. Tensione alla Camera, abbiamo detto, rissa tra esponenti di PDL e Futuro e Libertà, caso P3, polemica su Alfano che in aula critica i magistrati. Ieri, in questa concitata giornata, questo voto a Montecitorio alla Camera, il ministro della giustizia Alfano ha detto che effettivamente questa cosa, ha detto, della presunta loggia P3, sembra montata da arte, insomma, dai magistrati. Poi vediamo l'Unità ha un enorme disegno con una balena che inghiotte Pinocchio, ed era presente anche ieri invece su Libero, quindi con un giornale completamente all'opposto. Ieri la balena, che simboleggia ovviamente la vecchia DC, era cavalcata da Fini in prima posizione, poi c'era Casini e Rutelli. Riprende il simbolo, la simbologia, l'Unità, ma sotto il titolo è: ingoiato dalla balena, il fantasma del terzo polo. Caliendo salvo, ma il governo trema. Finiani, Rutelli e Casini si astengono, il premier di fatto è in minoranza. E poi la domanda, sempre nei vari approfondimenti prima pagina: elezioni a novembre, Bossi minimizza, ma Berlusconi sta già pensando a dimettersi e al voto, vuole la prova di forza in Parlamento. Molti, da più parti, analisti politici, dicono che avrebbe comunque un grosso successo nel caso ritornasse alle urne. L'accusa del PD: Franceschini dice, avete ucciso lo Stato di diritto, governo tecnico, si torna a parlare di Tremonti. E ritorna ancora l'ipotesi di Tremonti come possibile sostituto del Presidente del Consiglio. Ma dicevamo, ci sono alle porte ormai le vacanze anche per i parlamentari, si vedrà, insomma, cosa decideranno e lucubreranno durante l'estate. Poi il Manifesto, che riporta grande fotografia al centro del tabellone di Montecitorio, e il titolo, sempre molto in grande come uso del Manifesto: conti alla rovescia. Un po' questo è il gioco di parole, quindi una specie di resa dei conti, insomma, ha fatto i conti invece che il conto alla rovescia. Caliendo si salva, il governo meno, alla Camera non passa la sfiducia al sottosegretario indagato grazie all'astensione di Finiani e centristi, ma la maggioranza non ha più i numeri per reggere. Crisi di governo sempre più vicina, dice il manifesto, il premier prende tempo. E poi dà conto anche sotto il manifesto di una situazione di grossa difficoltà del quotidiano Liberazione, dice Liberazione in panne, 2 giorni di sciopero, direzione contro il CDR, cioè il sindacato interno, il comitato di redazione. Libero invece sceglie di aprire, diciamo, preso atto del risultato di ieri, con una indicazione, un'invocazione piuttosto forte, messaggio per Silvio, c'è scritto, è sotto in grande: votare, votare, votare. Allarme, la Camera boccia la sfiducia a Caliendo, ma il Premier non ha più la maggioranza dei voti. Se non interviene subito, subirà il ribaltone e gli cambieranno la legge elettorale. È importante, è interessante anche vedere il Secolo, il giornale dell'area di Fini, come apre, visto che Fini e i suoi sono stati decisamente protagonisti in questi giorni, ma con un titolo tutto sommato abbastanza morigerato: Finiani determinanti. Questo, la maggioranza si ferma a quota 229 e perde il braccio di ferro sui numeri. Questo l'apertura del Secolo, che vi ricordo tra l'altro diretto da Flavia Perina, che è deputata fedelissima finiana, e è piuttosto anche interessante ricordare che giornali dichiaratamente politici vicino a delle aree politiche circoscritte sono in questo periodo diretti da donne: Concita De Gregorio all'Unità, Norma Rangeri al Manifesto. Poi incuriosisce anche sapere, per esempio, il giornale, che in questi giorni ha cavalcato senza sosta la questione della casa di Monte Carlo attribuita a Fini. Come aprirà oggi? Andiamo a vedere il giornale, ed effettivamente l'apertura è: la casa di Monte Carlo, la procura indaga, Fini trema. E sotto, i magistrati di Roma hanno aperto un'inchiesta sulla strana cessione dell'appartamento lasciato in eredità ad AN. E mentre si svelano le bugie dei tesorieri del partito, noi ripetiamo la domanda: chi è il misterioso compratore? E sopra commento il fondo di Feltri, che si intitola "Che pena l'esordio del futuro e libertà". Il teatrino dei Finiani si esibisce su Caliendo, sfiducia respinta, ma è meglio votare. Tra l'altro, su questa cosa della casa di Monte Carlo, diciamo, pone una certa attenzione al centro pagina, la prima pagina, anche il Fatto Quotidiano. Questo è il titolo: nella lite tra Gaucci e la Tulliani è la compagna di Fini, e Gaucci è l'ex compagno della Tulliani. Nella lite tra Gaucci e la Tulliani, super Enalotto o super Balla? Perché ricorderete forse che ieri Elisabetta Tulliani ha detto che le case, le ricchezze che ha, le derivano da una vincita al super Enalotto. Così il Fatto Quotidiano si chiede se è super Enalotto o super Balla. Un patrimonio conteso, una botta di fortuna e una vincita miliardaria di cui si cercano le tracce. È troppo chiedere di saperne di più? Dice il Fatto Quotidiano. E poi l'apertura qual è? Ieri vi dicevo che era una domanda un po' quasi di natura astrofisica, astronomica, quella del Fatto Quotidiano ieri, ed era: c'è vita nel PD? Oggi invece un'evocazione un po' musicale, latineggiante: quando Caliendo il sol. Questo è il titolo di apertura. Berlusconi salva il sottosegretario ma non ha più maggioranza. Perde i pezzi anche il terzo polo. Questa è la cosa che introduce anche il Fatto Quotidiano. Il governo è al tramonto e punta su elezioni a marzo. Quindi insomma si fanno sempre più così ipotizzabile, forse anche credibili, questo ritorno alle urne, ma ovviamente, dicevo, c'è di mezzo l'estate, si vedrà che cosa succederà. Allora adesso incominciamo ad andare a prendere i commenti, anche per vedere un po' come poi approfondiscono i quotidiani con i loro analisti e editorialisti a questo fatto centrale di ieri e di oggi sui quotidiani. Intanto il Sole 24 Ore apre su un titolo naturalmente diverso: cedolare al 20% sugli affitti, cioè questa tassa unica sul reddito derivante dagli affitti, doveva essere 25%, in questi giorni invece è il 20%, soddisfatto Calderoli. Ai comuni il gettito di registro e ipocatastali, il via libera del Consiglio dei Ministri, quindi al federalismo municipale, riduce l'aliquota al prelievo sulle locazioni, abbiamo detto, quindi dal 25% al 20%. Però c'è il commento in prima pagina sul voto di sfiducia a Caliendo di Stefano Folli. Leggiamo proprio una prima parte. Il titolo intanto è: adesso per il Premier l'autunno più difficile. Come era previsto, Giacomo Caliendo resta sottosegretario e il Parlamento, insieme al governo, va in vacanza. Ma il voto di ieri ha sancito che almeno su un punto specifico, cioè la mozione di sfiducia ad personam presentata da una parte dell'opposizione, il governo non raggiunge la soglia dei 316 voti, la maggioranza assoluta. Addirittura è restato sotto quota 300, avendone raccolti 299. Esito piuttosto magro, dice Stefano Folli, che contribuisce a descrivere un bilancio amaro per Silvio Berlusconi, l'uomo che 2 anni fa era entrato in Parlamento a capo della più estesa maggioranza della storia repubblicana. Volendo sommare, con un'operazione un po' arbitraria, i no e gli astenuti, si arriva alla cifra di 304, 5 voti in più di quelli raccolti dalla coalizione PDL-Lega. In un certo senso, dice Folli, la maggioranza si è dissolta e rimetterla insieme sarà un'impresa complicata. Questo il Sole 24 Ore. Poi prendiamo invece il Corriere e c'è il fondo di Ernesto Galli della Loggia che si intitola La Grande Palude. Tra tante anomalie della politica italiana, dice, di questi giorni ce n'è una più anomala delle altre. Di fronte a una maggioranza parlamentare spaccata che non si sa neppure se esista ancora come tale, che cosa fa l'opposizione? Che cosa chiede la sua stampa più autorevole? Tutto tranne la sola cosa in cui qualunque sistema parlamentare si penserebbe subito, e cioè il ritorno alle urne. Elezioni anticipate? Per carità, si dice, inutili, pericolose, un'autentica sciagura per il paese. Piuttosto invece, dice Galli della Loggia, al posto della vecchia, una nuova grande maggioranza. Chi ci sta, ci sta. Un governo tecnico, ma non proprio, comunque larghe intese, le più larghe possibili, in cui alla fine potrebbero entrare tutti, da Bossi a Fini, a Tremonti, a Casini, a Rutelli, a Bersani, a Vendola, in teoria anche Di Pietro e Beppe Grillo, se volessero. Purché ovviamente ne stia fuori uno solo, lui, l'orco, quindi con riferimento a Berlusconi. È nota la ragione di questa bizzarria, dice Galli della Loggia. Il principale partito d'opposizione, il PD, non si sente pronto per una competizione elettorale, anzi la teme. Lo stesso vale più o meno per l'intero schieramento di centrosinistra, esclusa forse l'Italia dei Valori. Ci sono adesso gli aggiornamenti per chi sta viaggiando e poi continuiamo tra poco a leggere i giornali. In primo piano. Sempre Roberta Giordano con voi per raccontarvi un po' che cosa dicono i quotidiani nazionali oggi. E abbiamo detto al centro ovviamente il voto di sfiducia che è stato respinto nei confronti del sottosegretario Caliendo, però questa maggioranza che sembra non esserci più, almeno questo è stato un grosso banco di prova. Vi dicevo, dal Corriere abbiamo letto così brevemente l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, però c'è da dire che in quella giornata appunto convulsa che è stata ieri a Montecitorio, in cui ci sono state risse, anche qualche schiaffo, particolarmente drammatico è stato il momento della dichiarazione di voto di Chiara Moroni, ex nuovo PSI, poi confluita nel PDL. Poi sentite un po' che cosa è successo, adesso vi sintetizzo, pagina 2 del Corriere: il tormento della Moroni, non voto, andrò con Fini. Il discorso che ha tenuto a Montecitorio, l'esponente del governo è pienamente tutelato, detto, da garanzie democratiche che nel 92 non ci furono. Chiara Moroni, vi ricordo, è figlia di Sergio Moroni. Allora nel 92 nel Partito Socialista Italiano, coinvolto in Tangentopoli, si suicidò e lei ha chiesto ieri per ultima la parola a titolo personale e ha detto: non posso tollerare che la battaglia garantista venga confusa con la giustificazione, non posso tollerare altrettanto alcun giustizialismo. La mia è una storia profondamente garantista. Negli anni di Tangentopoli mio padre ritenne di doversi togliere la vita, e poi suo padre Sergio, e poi Chiara Moroni quindi ha deciso di essere praticamente il 34esimo deputato, visto che sono 33 alla Camera, i Finiani, ad aderire al gruppo appunto dei Finiani Futuro e Libertà. Questo quindi una novità, nel senso che i Finiani da ieri sono diventati Finiani fuoriusciti, 34 per questa decisione di Chiara Moroni. Su Repubblica vediamo l'editoriale di Massimo Giannini, vice direttore appunto del quotidiano. Si intitola Le anime morte. Vediamo sinteticamente: è finita il vascello fantasma del governo Berlusconi, come lo aveva definito Ezio Mauro meno di un mese fa, naviga ormai la deriva, neanche più in balia di se stesso, ma piuttosto di una cosa, tra virgolette, che non ha ancora un nome e un colore, ma che in Parlamento già esiste e già cambia la geografia politica del paese. Questo dice il voto della Camera sulla mozione di sfiducia contro il sottosegretario Caliendo. La maggioranza di centrodestra che aveva stravinto le elezioni 2 anni e mezzo fa non solo non esiste più politicamente, come era ormai evidente già da qualche mese. Andiamo a riprenderlo a pagina 26, ma ora ha cessato di esistere anche aritmeticamente, quindi a livello di numeri. Quella che fu l'invincibile armata berlusconiana, amputata della componente finiana e ridimensionata nel perimetro forza leghista, non ha più i numeri per governare. Così dice senza mezzi termini Massimo Giannini. Leggiamo ancora un pezzo: è bastato che il presidente della Camera parlasse di una questione morale esplosa dentro il Popolo della Libertà, che chiedesse una serie di doverosi passi indietro su posizioni eticamente indifendibili, da Branchera allo stesso Caliendo, che invocasse una forza conservatrice, sì, ma nel solco delle famiglie del popolarismo occidentale, cioè autenticamente capace di incarnare gli interessi nazionali della collettività e non più solo quelli personali di una casta. È bastato, dice Giannini su Repubblica, tutto questo in pochi giorni per allargare le colonne d'Ercole tra il vascello fantasma del Cavaliere, del Senatore e la leggera ma promettente imbarcazione di Fini. Questo è il commento della Repubblica. E poi direi di andare anche a vedere invece altri argomenti. Vi dicevo, per quanto riguarda le notizie dall'estero, questo misterioso attentato ad Ahmadinejad in Iran, prima pagina per esempio di Repubblica, che prima era stato annunciato, poi era stato smentito, poi è stato un po' ridimensionato, si è parlato di un petardo esploso per gioia, insomma, così, le notizie filtrate che arrivano dall'Iran. E poi sempre per gli esteri invece, prima pagina del Corriere, la Russia che è in preda agli incendi, è veramente una situazione molto molto grave. I roghi russi minacciano addirittura i siti nucleari, questo è il titolo del Corriere della Sera. Incendi ovunque in Russia a causa di un'ondata di calore senza precedenti. I roghi minacciano i centri nucleari, un'intera base aerea della Marina è andata in fiamme. Decine di morti e migliaia di persone intossicate anche nella metropolitana della capitale. Medvedev, il presidente, è rientrato per l'emergenza. Questo per quanto riguarda gli esteri. Poi vedo invece dalla prima pagina dell'Unità, sotto titolo piuttosto piccolo ma comunque evidente, Gelmini, la ministra Gelmini vuole laureare Bossi ad honorem, giusta causa, riconoscimento chiesto all'Università dell'Insubria. E allora, a proposito, diciamo così, di studi, di ambiente studentesco, vorrei segnalare una notizia che viene da una stessa ricerca, che però è riportata un po' diversamente sulla Repubblica e poi sulla Stampa. Repubblica scrive, nella prima pagina, grammatica questa sconosciuta alle medie, in crisi un ragazzo su tre, quindi una situazione piuttosto drammatica. Nei risultati degli esami le allieve superano i maschi in italiano, quindi Repubblica la presenta appunto così drammaticamente, con la grammatica che ormai è una sconosciuta per gli studenti italiani alle medie, mentre invece la Stampa scrive sulla stessa ricerca dell'Invalsi, scrive sorpresa, scuola si copia meno, e vabbè, questa è una cosa, però scrive anche poi all'interno a pagina 10, bravi e poco copioni, ecco gli studenti del liceo di domani, lo studio Invalsi sugli esami terza media migliorano i risultati in italiano e matematica, un po' presentati così un po' diversamente. E poi per chiudere, come vi annunciavo all'inizio, la fine di un mito, anzi prima vorrei dirvi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, ci tengo perché è ormai una donna la protagonista dello sport italiano e la Gazzetta dello Sport dedica una certa evidenza a Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto, un'estate con Fede, le sfide, gli amici, l'amore. La Pellegrini compie 22 anni e si racconta, voglio sentire il tifo degli italiani, li ripagherò con emozioni fortissime. E vi dicevo, per chiudere, quindi la fine di un mito inglese. Quale mito inglese sarà finito? La coda, che è uno degli emblemi dello stile inglese, che addirittura qualcuno ha scritto che, vado a riprendere sulla Stampa, un inglese, anche se è solo, forma una coda ordinata. Non è più così, niente coda, siamo inglesi, il mito va in frantumi, impazienti, indisciplinati, una ricerca svela un cambiamento epocale fra gli inglesi, la causa qual è? Scrive la Stampa, internet, abituato i giovani alla rapidità, l'offerta in tempo reale ha cancellato la capacità di aspettare.